Vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato. Ora ce vado io, ma ce l'hai tu. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Stiamo per iniziare a girare un film e stiamo rimandando le riprese per ascoltare la zanzara. Ma te rendi conto? Sono Isabella Bossita De Gotti e l'unico animale degno di essere tutelato è la zanzara. Stasera vi voglio carichi! Carichi! Carichi! D'accordo! Caro David, sono carichissimo stasera, sono molto carico, sono molto carico. Sono Parenzo Bossi Fedrigotti. Parenzo Bossi, Fredico, è un miscuglio tra signor Fredico e anche Bossi, un miscuglio. Sono molto carico. Salvini è andato in un campo rom. Sì, ho visto, a pazzesco. Roma. Dai, ma è un format, come dire, no? È un format, dai. È un... A un certo punto ha incontrato, credo, il capo del campo Rom, del campo, certo. Illegale, campo Rom illegale. Bisogna sempre specificarlo che è illegale, sì, se no sembra che sia in presenza. No, prendiamo il treno per Auschwitz, come prima, così possiamo andare. Di meglio che sparisce quella razza. Delle domande, perché devo risponderti sul treno per Auschwitz. Così quella razza di Rom, etnie, devo sparire. Vabbè, ma lasciamo perdere il cinema di Salvini all'interno del campo Rom con il capo. Prevedibile, tutto prevedibile, dai. Io vorrei farti ascoltare quello che ha detto Diana Pavlovic, sì, la tua ottimo. Amica Diana Pavlovic, la conosco pure io, una dei leader, diciamo, dei Rom italiani, chiamiamola così, la quale ha detto che è giusto regolarizzare i mercatini dei Rom. Tu sai che c'è questa delibera del comune di Roma, del commissario, che vuole regolarizzare. Giusto, l'aveva fatto prima. Ma come giusto? Come vanno, ti dico di più. C'è la roba rubata, gliela fai vendere con i mercatini. Si chiama mercato di serie B, che come tutte le economie di mercato. Ma è roba rubata. Hanno il mercato di serie A e quello di serie B. Ad esempio, un'altra cosa straordinaria da fare sarebbe da legalizzare quelli che suonano nelle metropolitane. Ma esempio, è merce rubata, lascia perdere quello. È merce che è stata provvisoriamente sottratta. Ecco. No, dai, David, non puoi regolarizzare un mercatino di merce rubata. Ma dai, su, comunque, sentiamo la Pavlovic, dai. Legalizzando i mercatini si mette sotto controllo una situazione, dunque se c'è un mercatino legale vuol dire che le cose che vengono vendute devono essere controllate, che c'è un regime, non so, di tasse di chi vende. Dai, ragazzi, non è possibile. No, ma non è sbagliato. No, non è senti che la dice, proposta, senti però, che dice, se recuperi un paio di scarpe, senti. se uno trova un paio di scarpe buttate alla spazzatura, le recupera, le pulisce e c'è un'altra persona che le compra per 2 euro, non si fa male a nessuno, no? Ma qui non è la questione del paio di scarpe, sì, no, ma su questo Paolo, ragione, perché se tu legalizzi quelle situazioni, ma non dire stupidaggini, in realtà le controlli, non è una battuta. Scusa, mia figlia, Franco da Milano, lo stronzo da Napoli, Bubu da Mantova, ma cosa c'entra? A dire, Parenzo legalizza le robe rubate, portateli a casa tua. Hanno ragione, miserabili! Basta, è finita la vostra ora. La trasmissione da oggi non esiste più. È chiusa, non ci siete più a parlare, a dire le vostre stronzate razziste. Ma sei completamente pazzo. Io mi ritiro da oggi, fine, chiuso. Arrivederci, ciao, fai fatela da solo tu e quei quattro stronzi. Ma non puoi dire il paio di scarpe, Davide. Sciopero della parola. Ma finito. Non puoi dire il paio di per scarpe. Due scarpe non ma non è vero, nessuno. Rubano rame e oro. Ma io non parlo più con te. Mi sono dai, stufato. Su. Mi no, sono, ma senti mi questa stufato. Roba. Il primo miserabile che chiama per dire che Parenzo vuole. Sì, vuoi legalizzare tua. I mercati di merce sì, rubata. No, ma di più. Vuoi legalizzare i mercati di merce rubata. Ti dico solo questo. Comunque, senti la barbuta Rom. Va, senti cosa dice la barbuta Rom. Senti. Viene considerato l'oro rosso, 4 euro. Sì, ma tu lo vai a trovare quello. Uno che se lo deve andare a rubare va bene. Tipo due anni fa sono stati rubati i cavi di rame dell'aeroporto. Sì, ma quello lì erano cazzate fra ragazzini che si dovevano andare a comprare qualcosa. Si è spento l'aeroporto. Cosa, sì, ma non è che è una cosa che hanno fatto i grandi. Rubare rame va bene. Rubare rame, dai, su ragazzi, su. Cioè, ma questi sono dei ladri. Ovviamente non è che coi rom risolvi il problema dell'Italia, se metti a posto i campi rom. Attenzione, ma il modo in cui affronti la questione dei rom, caro Parenzo, inutile che fai il silenzio adesso, non fare il buffone. Il modo in cui affronti la questione rom è importante per capire se uno c'ha il pugno di ferro con l'illegalità, ma sì, oppure ma no. Ma invece ci sono situazioni in cui se tu le porti alla luce del sole e le sani, in un certo modo le controlli, no? Per cui chi fa il mercatino è ovvio che non metterà la roba rubata. Ma a come Porta no? Portese, che roba tu sei romano, sai cos'è Porta Portese? Vabbè, mica c'è solo il roba mercato rubata, delle che pulci. Sei in passato ci sono state anche cose rubate. Ma è diverso, dai. E il mercato delle è uguale, pulci per me, c'è non va bene stato. Quello. Sono anche quello non va microeconomie straordinarie che si possono creare. Microeconomie. Ma sono furti, ruberie, dai, su, non diciamo stupidaggini. Oh, a proposito di Rom, il signor Bertolaso, che è ancora provvisoriamente il candidato del centrodestra tranne la Lega. Provvisoriamente. Beh, provvisoriamente, perché la Lega non gli dà appoggio, è candidato di Berlusconi e della Meloni. Ecco, senti questa cosa qua. Ad arrivare i tweet di questi qua, no, ma Alessandro Urso, sta stai gente, tranquillo. Ma chi è sta vuoi gente? Stare ma tranquillo, che volete no? Da me? Ma che volete stai da me? Stai tranquillo, stai tranquillo. Allora, Bertolaso è passato in una settimana da i Rom vittime a toglieremo i cassonetti per evitare che rovistino dentro. Ti assicuro che ha detto che toglieremo i cassonetti. Guarda, si avvia ad essere quasi peggio di Marino in quanto a gaffo, signor Bertolaso. Evitando che i bambini, i figli dei Rom, le bambine, le adolescenti e anche spesso molte donne del gruppo Rom vadano in giro allo sbando in città e andando a creare tutte quelle che sono le situazioni di illegalità, i piccoli borseggi, appunto rovistare nei cassonetti, ma quello è un problema che noi comunque risolveremo, perché noi i cassonetti li toglieremo e quindi andremo a impedire quella che è una delle attività diciamo più frequenti. Io non ho capito qual è l'idea, cioè di togliere i cassonetti. Cioè tu ti rendi conto, Parenzo, togliere i cassonetti. Come si fa a togliere i cassonetti? Cioè, esistono città in cui i cassonetti non esistono? Cioè no, spiegamelo. Non mi risulta. Forse solo a Varallo-Sesia. Varallo-Sesia non esistono più i cassonetti perché vengono molestati dai cittadini. Quindi come tu hai, come basta vedere su Google, diciamo, quello che avviene in quel comune governato dal signor Buonanno, ci sono dei cittadini che violentano i cassonetti in quelle, infatti non ci sono più cassonetti. Allora, la Mussolini dice, adesso questa cosa qua ti farà imbestialire, David, che i Rom ubriacano di birra i bambini, ti giuro, ha detto così. I Rom ubriacano, anch'io che non ho una posizione pro Rom di solito, devo dire che questa cosa qui, però magari è vera, I Rom, per cortesia, sì. Gentilmente sì, sì. Mettono per terra, accanto sì. magari a dei cani, sì. anche loro addormentati, questi bambini che non vanno voglia di dormire, ma sapete come li fanno addormentare i Rom? Con la birra, perché li ubriacano per farli stare lì ore e ore per fare pietà. li ubriacano, ti risulta? No, ma non, lo so, non so di che parla, guarda, non so di che cosa parla. Fermi tutti, torniamo tra un attimo. Traffico veocilare. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Allora, leggo oggi, caro Parenzo, il business dell'accoglienza, Ferrari e 24.000 euro al giorno, la bella vita del re degli immigrati, cioè chi fa i soldi, chi fa i quattrini con i profughi, ecco l'imprenditore simbolo di chi fa affari sfruttando la solidarietà. Si chiama Paolo Di Donato, gestisce quasi 1.000 richiedenti asilo, incassa 30.000 euro al giorno e tra barche e auto di lusso non si fa mancare nulla. Ora, è l'anticipazione di un libro scritto da Mario Giordano, Profugopoli, e insomma questo signore che si chiama Di Donato viene dipinto... Bisogna dire la verità, signor Giordano ha sempre dei titoli anche straordinari. Sì, però, Profugopoli, sì. Questo verità, signore viene dipinto come una sorta... Va detta la verità, è che non si dica che è una marchetta, va detta la verità. Allora, questo signore viene dipinto come una sorta di mostro, uno che fa i soldi con gli immigrati, con i profughi. Sentiamolo, va, sentiamolo, vediamo di pizzicarlo al telefono. Di Donato? Sì. Salve, qui Radio 24, la disturbo? No, assolutamente. Senta Di Donato, noi oggi abbiamo letto sul giornale un'inchiesta su di lei. Lei sarà incazzato come una biscia, immagino. No, non è un'inchiesta, è uno spot pubblicitario di Mario Giordano. Io non ho né la Ferrari, né la barca, né la Porsche, guardi, quindi. Cioè, dunque, non è... lei non è l'uomo che in Ferrari che fa i milioni con i profughi? Sono foto prese da Facebook. Insomma... Sette anni fa, otto anni fa, dieci anni fa, non ho la Ferrari. Sì. Né la Porsche, né la barca. No, la Porsche lei dice di averla, io ho letto qua. La Porsche? La Porsche l'ho pagata 11.000 euro, dunque ce l'ha la Porsche. 11.000 euro, sì, vabbè, la Porsche di 11.000 euro, vabbè, sì. Vabbè, dunque la Porsche ce l'ha, ma ce l'ha. Beh, mica è un crimine, per carità. No, assolutamente, non penso proprio, guarda, abbiamo 130 dipendenti. Ma allora, voglio dire, io voglio capire una cosa, siccome la dipingono come l'uomo che fa i milioni con i profughi? Bene, sì. È vero o no? Non penso proprio, guardi. Dunque, vuole portare in tribunale il giornale Giordano? Certo. Cioè, sta facendo una querela per diffamazione, una causa... Guardi, comunque, sì, stiamo valutando con gli avvocati. Lei ha gestisce alcuni centri profughi, giusto? 13 centri profughi in provincia di Benevento, abbiamo vinto una regolare gara d'appalto a prezzo più basso, 28 sì. euro al giorno, prezzo più basso d'Italia. Siccome qui c'è scritto che lei fa i milioni, posso sapere... Dove stanno questi milioni? Non riesco a capire. Posso sapere qual è la sua dichiarazione dei redditi? Così, lo so che è una cosa di privacy, però lei, siccome è uscito... Guardi, io sono un dirigente. Dunque, quanto guadagna? È milionario o no? Siccome qua dice che io lei... Io, personalmente... Ma guardi, io guadagno 3.000 euro al mese, sono un dipendente. Io ho letto qui, ho la coscienza pulita perché gli ospiti vengono trattati bene, nessuno specula su di loro, è un lavoro come tutti gli altri, tutti guadagnano. Chi è che guadagna? È la società. Scusi, no, la società, tutti guadagnano, cioè dipendenti, fornitori, poi chi ci guadagna dai profughi? Con i profughi però si guadagna. Scusi un attimo, se i profughi sono in un centro di accoglienza... Sì. In 13 centri di accoglienza paghiamo 50.000 euro di fitto, no? Sì. 100.000 sì. euro di alimenti. Sì. 75.000 euro bisogna dargli ai profughi per il pocket money. 30.000 euro comunque di utenze. 25.000 euro comunque di gas. Sì. Di cosa stiamo parlando? Dove stanno questi milioni? Lei dice tutti guadagnano dai profughi. Cioè ci guadagna le aziende, le sue aziende, l'Enel, la compagnia del gas. Certo, è normale, con il gas. Scusi, non vendono il gas, non vendono comunque la corrente. Ma va benissimo. I supermercati di Benevento vendono 100.000 euro al mese di derrate alimentari, non guadagnano. Dunque si può dire che. Si può dire che con gli immigrati ci si vive, ci si mangia, ci si guadagna, ma in modo legittimo. Scusi, mi faccia capire, ma Giordano non sta preparando un libro, non guadagna anche lui. Ma lasci stare Giordano, va benissimo. Però si può dire che lavorando con gli immigrati ci si guadagna pure. Io lo sostengo da sempre, lo ritengo anche giusto. Ma scusi, peraltro. Sono degli appalti pubblici, non è la Caritas. Certo! Sa che noi come azienda prendiamo 28 euro al giorno e la Caritas ne prende 35. I sei profughi non arrivassero, lei si dovrebbe trovare un altro lavoro però, amico mio. E o no? Qual è il problema? No, però è vero che si dovrebbe trovare un altro lavoro. E certo. I profughi fanno guadagnare un sacco di gente. Cos'è che le ha dato fastidio di quella bellissima inchiesta di Giordano? Allora, sai che cosa mi ha dato fastidio? Che Giordano 3 mesi fa ci ha chiesto informazioni. Noi abbiamo inviato contratti per 50.000 euro al mese di fitti. Abbiamo inviato comunque fatture 100.000 euro che spendiamo nei supermercati. Abbiamo inviato comunque, abbiamo dimostrato a Giordano che su questi 700.000 euro al mese 500.000 euro sono di spese comunque vive e poi ci sono comunque le tasse. Lui perché comunque parla sul giornale di 24.000 euro al giorno come incasso e le spese dove stanno? Di 130 dipendenti, chi li paga? Scusi un attimo, ma dunque lei non si sente lo speculatore, quello che specula sui profughi, o no? Lo speculatore lo sa chi è? Allora, se lei comunque viene nelle nostre strutture, noi usiamo riso scotti, latte Parmalat. Il riso scotti costa 2 euro, un'altra marca costa 1 euro, il latte Parmalat costa 1,20 euro. Se lei va a prendere il latte all'Eurospin costa 70 centesimi, noi usiamo materie prime. E chi è, chi è che specula allora? No, sono quelle persone che comunque non danno un buon servizio ai profughi. Un profugo dentro il suo centro viene servito e riverito. Rispettiamo il contratto della prefettura. Il contratto della prefettura è online, ci dice che noi dobbiamo somministrare colazione, primo, secondo, ci dice anche quello che comunque gli dobbiamo far mangiare. Giusto, ci mancherebbe. Dobbiamo dare comunque i vestiti, gli dobbiamo dare 2,50 euro, gli dobbiamo dare wifi, gli dobbiamo dare... Noi rispettiamo il capitolato, dobbiamo dare conto solo al prefetto. E poi hanno anche il telefonino? Sono questioni comunque loro, il telefonino. Certo, telefonino lo comprano, certo. Sì. Come si comportano dentro lo sto centro? Allora, ci sono questo purtroppo che loro vorrebbero mangiare tutto africano, vorrebbero mangiare le cose comunque africane, vorrebbero andare comunque scalzi. Vabbè. Lo sa un profugo, lo sa comunque, non so se lo sa Mario Giordano, lo sa che un profugo si lava, fa 5 docce al giorno? 5 docce al giorno, più di me, Parenzo, Parenzo! No, attenzione, perché no, lui fa 5 ma volte il profugo, al giorno. Io se metto che il profugo è più civile di Cruciani, questo voglio dire, è la l'uomo ma 5 docce al giorno costano un sacco di soldi, ma poi che altre cose fanno oltre alle 5 docce al giorno? Mangiano come pazzi? Allora le faccio un esempio: la mattina con la biscotti e latte. Sì. A pranzo, normale. A pranzo loro hanno soltanto comunque pochi menù perché mangiano o il riso o la pasta e come secondo mangiano o il pollo o comunque la carne. Questo loro mangiano. E la cena? La cena? La cena o il riso, generalmente sempre riso e pollo. Riso e pollo. E contorno, frutta e yogurt. Meno male, dai. Caffè no? Caffè, usano il caffè come il tè cinese usano. Il tè cinese. Lo sa Cruciani che noi spendiamo 10.000 euro al mese di creme? Che vuol dire? No, lo sa perché? Perché comunque gli africani, le creme, la pelle degli africani, diciamo così un po', non le so dire comunque il termine comunque medico, quindi loro usano sempre comunque creme, spendiamo 10.000 euro al mese, quindi Giordano che mi dice che incassiamo 24.000 euro al giorno, prima di tutto non li incassiamo perché li fatturiamo, la prima cosa. Ma 10.000 euro? Seconda cosa, le spese dove stanno? Le paga Giordano, chi le paga? Scusi, 10.000 euro al mese di creme, ma che tipo di creme? Questo è interessante. Che tipo di creme? Usano la leocrema, 2 euro, 3 euro, la leocrema. Ma che serve? Ma se hanno la pelle delicata, ma perché speculate su questo? Ma che serve? Scientificamente loro devono usare, siccome hanno la pelle, come si dice in italiano? Squamata, un po' squamata, come si dice? Squamata, no? Sì. Allora loro usano sempre mettere la crema ogni ora. Quindi, in totale... Ma poveretti, certo, allora, ma che discorso? Allora, adesso si capirà qualche stronzo, vedrai, immagino già io. Allora, di Donato? Quindi su 700 comunque profughi sono 10.000 euro al mese solo di creme. Che altre cose deve dare oltre alle creme? Dobbiamo dare comunque spazzolino, dentifricio, dobbiamo dare comunque shampoo, dobbiamo dare sapone, dobbiamo dare i vestiti, dobbiamo dare comunque le scarpe. Va bene, Di Donato, lei è stato molto chiaro, grazie. Grazie. Saluti. Grazie. Saluti. Buona saluti, serata. Saluti. Beh, amico mio, le creme ai profughi. Le creme ai profughi. Che danno anche le creme ai profughi. Quindi gli danno anche l'aspirina a questi profughi. Le creme ai profughi. È uguale, profughi, ha lo stesso valore dell'aspirina, capito, per loro, perché hanno la pelle delicata. Perché, ma comunque adesso chiama un dermatologo se non capisco. E ride, lui ride con la sua risata cinica e cattiva. Sì, danno anche le creme, certo, gli danno le creme, certo. Danno anche le Francesco creme da Milano. Che clima, che ambiente, eccomi, che gente, eccomi. Che degrado. Ciao, ma ti pare normale che uno dà le creme? Sì. In un centro proprio, con le creme. Guarda, se non giudichi normale questo, e giudichi invece normale quella famigliola della signora col marito che vanno sul set porno con la figlia consenziente. Assolutamente. E quello giudichi tu normale? Amico mio, non è tutto finito. È finito da anni tutto. È morto. Sei morto e non te ne rendi conto. 18:56. Chiudi questa trasmissione. Non puoi dire niente di più ormai. Francesco, perché hai talmente alzato Francesco. L'asticella del degrado morale eccomi. Che non è più possibile andare oltre. Che ne so, impazzito stasera. Eccomi qua. Ciao, Giuseppe, ciao David. Sentiamo. Allora, intanto, eccomi. Intanto, sì. Anche se so che ti dà fastidio, te lo dico lo stesso. Complimenti per la trasmissione. Vai, forza. Sì, vabbè. Ascolta, ti chiamavo perché ieri sera io ti ho sentito particolarmente preoccupato per la vicenda Berlusconi, sì. Un po' depresso, poi preoccupato. Sì, un mondo che cambia, non mi adatto a questo mondo in cui si danno le creme ai profughi, Berlusconi diventa vegetariano. Esatto. Però ti volevo dare un I Rom si legalizzano i mercatini Rom della roba rubata. Non è roba rubata, incredibile. Allora? Darti questa parola di conforto. Intanto Berlusconi, secondo me, la sua scelta non l'ha fatta sicuramente. E perché l'ha fatta? Di salute, perché è disperato perché per motivi elettorali, ma non credo che tu dici una cosa del genere, guadagni voti, dai, fermo lì. Cruciani, ma chi cazzo è il tuo parrucchiere? I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Senti Cruciani, ti voglio chiedere un piacere. Se ti chiamassi in trasmissione e ti passassi la mia ragazza, puoi aiutarmi a convincerla a farmi le corna? Ho cercato in tutti i modi di convincerla che sarebbe una cosa bella, un gioco erotico di alta qualità, ma purtroppo non ci sono ancora riuscito ed è abbastanza contraria. Però magari se parlasse con te, non so, potresti aiutarmi a convincerla. Queste le richieste che arrivano, caro Parenzo, Queste le richieste che arrivano. Lo sai che c'è uno, adesso Parenzo tu darai di matto di fronte a queste cose. C'è un tizio che mi ha mandato un video con il suo pappagallo. Il suo pappagallo, sì. Lo vuole convincere, il pappagallo lo ha chiamato Andrew. Vuole convincere questo pappagallo a ripetere viva il duce, ti giuro. Cioè lo vuole addestrare a ripetere viva il duce. Viva. È diventato... A Roma c'è il famoso zoo a Villa Borghese. Ecco, abbiamo superato ampiamente lo zoo di Villa Borghese. Ma secondo te cosa devo rispondere a questo qua? Signore che vuole... Vuole che il pappagallo ripeta viva il duce, ma ti giuro, mi ha scritto tra l'altro, guarda che prima o poi ci riuscirò a fargli ripetere viva il duce. Ma ci informi, chiediamo la notizia. Ripeti Andrew, dai, impara. Viva il duce. Ripeti? Ripeti Parenzo, dai. Parenzo, viva il duce. Dai, vive il duce. Non me ne ero accorto che diceva pure ripetilo a Parenzo. Ma certo, poveretto, si diverte così. Questo è veramente un matto totale. Si apprende invece, parlando più seriamente, a proposito di RAI, Radio Televisione Italiana, Parenzo, che a Roma ci sono ben 28 sedi della direzione generale della RAI. Quanti 28 ce ne sono? Sedi 28, che costano naturalmente un sacco di soldi tra manutenzione. Ma tanto loro adesso hanno il canone in bolletta, manutenzione, riscaldamento, pulizia, eccetera, eccetera. Mamma mia. Solamente per gli spostamenti tra una sede e l'altra vanno via 2 milioni in due anni. Cioè, questa è la situazione. 2 milioni di euro, 4 miliardi di vecchie lire. Caro Campo dall'Orto, vogliamo mettere mano a questa cosa? A questa follia o no? Vabbè. Grande serata, caro Parenzo, andrei con gli ascoltatori 800 24 00 24. Ma chiudiamo prima alle 19.30 stasera, è vero? Ma perché? Ma chi te l'ha detto? È una comunicazione aziendale di Barisoli. Stasera dovete chiudere 19.30 perché poi abbiamo degli speciali, è vero o no? No, no, Massimiliano Rimini, vai. Ciao Parenzo, ciao Cruciani, bravi per la trasmissione. Vai. Sì, ti dicevo, non è che nutro particolare simpatia per Bertolaso, però penso che lui si riferisse a quello che hanno fatto anche in Argentina, li interrano i cassonetti. No, ma non solo, in realtà io mi sono sbagliato prima, è pieno di città dove non esistono i cassonetti, c'è la raccolta porta a porta, anche a Milano non ci sono i cassonetti. Dunque lui, ma siccome era una cosa buttata lì, non pensavo che fosse la proposta di cambiare, no? Di cambiare il modo di raccolta dei rifiuti a Roma. Evidentemente vuole uno dei suoi punti nel programma. Forse può essere quello di togliere i cassonetti e di fare un altro tipo di raccolta. Anche a Milano non ci sono i cassonetti. Sì, ma infatti io per quello adesso è stato capo della Protezione Civile, mi è venuto da pensare lo fa magari con cognizione tecnica. Poi, per quello. Poi la Santanchè, io sono fatto lavorare in Romania dei Rom che li fa bere. Non ho capito, scusa, non ho capito. La Santanchè dice che addormentano i bambini. No, è la Mussolini, Mussolini che dice uguale, che riempiono di birra i bambini. Scusa, non c'è differenza. Scusa, molto. Beh, no, c'è differenza. Santanchè, Mussolini, non c'è, uguale. Ma dai, non dire cazzate, dai. Ah, che dicono cose così diverse? Ma sì, sì, in parte sì. Dicono cose diverse. Ma dipende dall'argomento, dai. Sì, certo. Vabbè, Massimiliano, dai, dimmi. Insomma, quando lavoravo in Romania venivano assunti degli stagionali e conobbi un Roma, ma conoscevo veramente superficiale, però era una cosa che mi aveva già incuriosito, quindi glielo chiesi e lui mi disse, guarda, o li fanno stare svegli tutta la notte, così il giorno dormono tutto il giorno, oppure li narcotizzano. Io penso con che cosa? Con cioè per far dormire i bambini di giorno li fanno, che cosa fanno? Secondo lui, poi io ti dico cosa mi hanno detto. Ma che cosa serve questa roba, scusa? Farli... Perché loro ovviamente dovrebbero fare più compassione con il bambino, però se il bambino rompe i coglioni non è che gli dà tanto aiuto. Anche però se tu ci pensi, ma guarda, svegli di quei bambini per me chi è in cerca di quattrini o di denaro è capace di qualsiasi cosa, purtroppo anche nei confronti dei bambini. Franco d'Alessandria, vai Franco. Sera. Dimmi. Sono uno dei miserabili che ascolta la sua trasmissione, secondo la definizione del suo illustre collega. Sì, Franco. Sì, beh, dipende cosa dice, non è miserabile, no, non vale per erga omnes. No, lei Parenzo, è un fenomeno, perché ultimamente alla terza parola sua giro e sento Radio Capital, non avrei mai pensato in vita mia di poter sopportare Zucconi. Ma sì, lo trovo più leggero di sì, sì, diciamo, sì, no, ma cioè, non risulta dagli ascolti radiofonici questa cosa che dice, però va bene. No, per carità, è una cosa mia, non dico mica che tutti fanno come fate. Ma lei ora cosa sta ascoltando e dove sta intervenendo lei ora? Tramite molto telefono, mi sono prenotato, poi vabbè, Franco, ma che cosa ha da rimproverare a Parenzo? Lo dica chiaramente. Che è uno scassacazzo. Cioè, però argomenti meglio, è uno scassacazzo argomenti meglio. È uno che riesce a fare sì. diventare razzisti quelli che non lo sono. Per esempio, quando dice cose lungi da me fare elogi di zio Adolfo. Ma se zio Adolfo, gli ebrei che ha conosciuto erano tutti piazzati come suo socio, non dico di dargli delle giustificazioni, ma insomma le attenuanti generiche sì. Hai capito? Il ragionamento rispondi tu. Dai, rispondi su, non essere così pigro. Rispondi. Cosa vuol dire rispondi? Zio Adolfo, rispondi su zio Adolfo. Ma dai. Cosa rispondi? Ha detto che zio Adolfo, cioè Hitler, ma il signor chiama che pare avesse tanto un pene molto piccolo, come ripeto, da alcune indagini. Come l'ascoltatore, come si stai dicendo che Franco è un cazzo piccolo? Non stai dicendo, sto supponendo, no, stai dicendo, sto che confermando. Franco dice che è un cazzo piccolo. Ma sicuramente le argomentazioni da tutto. Quanto misura il tuo? Il mio? 17. Beh, no, 17 è una bella roba. 17 millimetri però, perché vai in... Sì, no, ma ho anche 60 anni e mi viene ancora duro. Ma che c'entra? Scusami, ma che schifo, amico, ma come, mio, 60 anni non, ma è chi che, se ne frega, non è che diminuisce il calibro, deve prendere delle pastiglie. E tu no, vabbè, siamo da questo punto di vista, da questo punto di vista possiamo stare tranquilli, ma non capisco il riferimento che hai fatto a zio Adolfo, scusami, spiegalo a Parenzo, soprattutto essendo Parenzo non ebreo. Sono interessato a queste sue... E quando uno diventa, siete tutti ignoranti, sono furbo io, voi siete scemi, perché leggete questo, perché dite l'altro, di base, io sono furbo, tu sei scemo, e poi qualcuno che si incazza, che gli pianta un pattone sul naso, lo trova, E allora, ma che c'entra con zio Adolfo, scusa? Zio Adolfo era un po' più incazzevole e ne ha arrostiti un tot. Poi zio Adolfo era anche arrostiti, un cretino, perché visto che ha cominciato l'opera, poteva arrostirli tutti. Perché dopo la brutta figura l'ha fatta. Eccolo qua, ormai cosa vuoi dire a gente così? Cioè, tu ti auguri che... No, assolutamente no. Ma come no? Allora, di che stiamo parlando, scusa? Stiamo parlando che va in tribunale, dici questo le attenuanti generiche, no, le attenuanti generiche. Ha provato a fare un paradosso stupido, a fare una specie di battuta, non gli è riuscita. Sei furbo solo te, Parenzo. No, ho detto che non ho detto questo. Sono tutti ho detto che hai provato, non tutti ignoranti, non tutti, tu lo sei ignorante, non tutti, no tutti, perché la maggior parte delle persone che ascoltano sono persone molto per bene, peraltro. No, li hai definiti miserabili. Dipende, tu sei il primo della serata, 19:27 il primo, e poi vediamo quali altri, mica tutti. Penso che sarò l'ultimo. Ma guarda, ciao, per Franco, fortuna. Mirko da Torino, vai, non Mirko. Non tutti sono così, per fortuna. Mirko, vai, dimmi. Mercatino degli zingari, le cremine per gli emigrati, ecco, qualcos'altro ancora? Cosa avevo detto io prima? Beh, ma Mirko ha ragione, cosa non ha torto. Cosa avevo detto? Non ha torto, Mirko. Cosa avevo detto? Ma non però ha torto. Sulle cremine, ma non sulle ha torto. Cose avevo detto. Non ha torto. Cosa ha torto? Ma cosa vuol dire? C'hanno la pesquamosa, poverini. Vabbè, adesso questo lascia perdere. Magari soffrono. Io non capisco a cosa servono queste creme, effettivamente. 10.000 euro cosa vuol dire, non di creme. Non capisco a cosa allora, servono le creme. Siccome hanno una pelle diversa dalla nostra, è come dire l'aspirina. Lei invece, siccome ha un cervello che è talmente... Scusa, che ti pare normale che noi spendiamo 10.000 euro per le creme dei propoli? Nanotecnologie, bravo, per capire. No, ma scusa, ti pare normale adesso con ecco, tutto bravo il fatto? Bravo Beppe, hai visto l'amico? No, ma ti pare... Avete sentito, ascoltatori, no? Bravo Beppe, è arrivato il nazistello. Ma cosa c'entra? Bravo, ma non c'entra, che c'entra? Diglielo a Parenzo, ma che c'entra il nazismo? Cosa la c'entra? Crema per i migranti. Beh, mi pare la un po' crema... francamente un po' eccessivo, devo dire. Siete tutto normale secondo te, Parenzo? Ma certamente, cosa vuol dire? Per lui è normale, per lui è normale. Ma se uno sta male gli dai l'aspirina, no? Furbo d'un furbo. Ma la crema che c'entra? Ma la crema che c'entra? La crema che cosa c'entra? Non è una crema per bellezza. Non è una crema per bella bellezza. I mercatini vanno bene. I mercatini sono una cosa intelligente perché legalizzano. Tu rubi rame, rubi l'oro, perché portano alla luce il sommerso. E poi vendi. No, ma che il sommerso? Il rubato, no? Il sommerso. Il sommerso è perché è rubato. Guarda che a Porta Portese. Ma che c'entra Porta Portese, che è legale col mercatino degli zingari? O a Milano al mercatino delle pulci, non so allora, quanta di quella roba lì sia, come dire, di provenienza, Mirko. Eppure è un'economia, come dire, no? Stava intervenendo sommersa, Mirko. Che, Mirko? Però l'altro giorno mi è successo di andare vicino a un campo rom a Torino, così c'erano i topi che giravano, i topazzi, le galline per le strade, ma per Parenzo sono tutte cose normali. Vabbè, ma quello però sono ragazzi loro, io decisioni di metterle a norma, infatti, ma che per schifo, chiuderli, dai, ma che schifo, dalle case popolari. A dare le case popolari tu sei? Dare sì, le, case, le popolari. Case popolari, dare delle abitazioni, rendere dare civili, abitazioni. Insomma, dai. Ma perché? Cercare le case da soli, no? Sì, anche cercarsene certo, da solo no? Per chi poi ha lavoro c'è certo, chi non ha lavoro invece altri, che deve tu, fare come tutti gli altri gli italiani hanno mettersi in lista per le case popolari. Ci sono anche profilattici per i vegani. No La Zanzara. Al mio ristorante entra una coppia oggi, mi guardano e mi fa: ciao, cosa fate? Cioè, cucina tipica dell'Emilia Romagna. Questa signora mi guarda e mi fa: c'avete la pasta di farro? Allora adesso faccio: no signora, la pasta di farro, abbiamo la pasta fatta in casa. No, ma io sono vegana. Allora, se sei vegana, vai a casa tua, ti fai, compri la tua pasta di farro, ti fai la tua erbetta con la pasta di farro e non mi vieni a rompere la minchia, va bene? Io sono carnivoro e quando vado in montagna e vedo le vacche al pascolo, penso sempre che la nostra cena caga regolarmente sulla cena dei vegani. Cruciani, hai rotto il cazzo con sta tua crociata contro chi vuole difendere i diritti degli animali. Fino a prova contraria la carne te la puoi mangiare e nessuno ti rompe i coglioni. E poi scrivi sto cazzo di libro, nazi vegani, quello che cacchio è. Vendi in tutto 30-40 copie, delle quali 25 te le sei comprate da solo, così ti accorgi che di quello che dici non gliene frega un cazzo a nessuno e finisce sta rottura di coglioni. Che palle! Allora, ma davvero esistono, caro Parenzo, i preservativi vegan? Preservativi vegan, ti leggo solo questa pubblicità. No, ma scusami, ma il preservativo già non è fatto con il lattice? Sì, appunto. E il lattice? No, vabbè, sono le sostanze, poi non lo so, guarda, non mi voglio interessare di questa cosa. Ci sarà sicuramente la formula, una formula vegana per i preservativi. Allora, preservativi vegan è uno spazio ecologico per chi sceglie l'amore. Questa è un'azienda che pubblicizza, no? E profilattici vegan e ecologici. In queste pagine troverai prodotti per il sesso, prodotti che sono cruelty free e ecologici. Scopri il piacere di un preservativo vegan alla frutta. Cioè, ci sono i preservativi cruelty free, capito? Sì, capito a cosa questo... siamo arrivati? Ma sì. No, ma questi sono dei geni. Non te la devi prendere con queste aziende. No, questi aziende. Sono dei geni. Sì, questi sono dei intelligenti, geni. Come quelli che fanno la spa per i cani, quelli che fanno il mangiare vegano. Sì, questi sono dei geni assoluti. Questa è questi sono dei geni totali. Avrei da discutere su chi compra questi oggetti, ma non lo faccio. Cioè, ci sono i malati vegani, che probabilmente, nazi vegani, che probabilmente non resistono nemmeno al preservativo normale e si pongono il problema: questo preservativo come è fatto? È fatto con sostanze che vengono dal mondo animale oppure no? Ed evidentemente dicono: ah sì, i preservativi normali sono fatti anche con un minimo di sostanza che viene dal mondo animale. Dunque dobbiamo comprare i preservativi cruelty free. Ma va, fanculo, va. Liliana, provincia di Vicenza, vai Liliana. Buonasera. Dimmi Liliana, dimmi. Allora, ho sentito quel signore che vuole far parlare il pappagallo. Sì. E dirle di Mussolini, insomma. Sì, io vuole dire viva il duce al pappagallo. Viva il duce. Parenzo, esatto. È pronto alla denuncia anche in questo caso. No, ma per infermità mentale, uno che già fa questo, chiama per dirlo, almeno uno dice no, fa una coglionata, in genere ha il buon gusto di tenerselo in casa proprio. Invece no, compra il pappagallo, lo obbliga a dire viva il duce e si vanta di questa cosa e chiama. Ma non e è chiama che si per può dire arrabbiare. Parenzo. Sì, esatto, chiama un po'. Adesso gliela faccio, adesso chiamo 800 24 00 24. Definirli salami è poco, appunto. Poi non è che sono sdobbi. Vabbè, Liliana, allora. Ma la gente. No, allora volevo dirvi che io sono riuscita a far parlare una Dracula religiosa, un'altra. No? Una, scusa, una? Una Dracula religiosa. Vabbè, come si chiama questa qua, signora? Scusi, Dracula religiosa. Dracula. Dracula. Sì, come G, Dracula religiosa, la maina indiana. Ah, merlo nero. Ah, praticamente. Allora, mi dica meglio. Beh, ma grazie per aver chiamato, è incredibile. 19:40, una giornata politica come quella di oggi. Molto gentile averci informato di questo. Sono riuscita a far parlare questo merlo, no? Ma è importante, perché assolutamente una vuole ha parlato il merlo, Francesco, fate presto con questo merlo. Allora, che ha detto? Parenzo? Che ha detto, sì, il merlo? Signora, scusa. Posso parlare? Che ha detto? Allora, io sono riuscita a far parlare questo merlo, sì, perché benissimo. Mi era stato affidato per dei giorni da una persona che mi stava sulle palle. Dimmi te, e allora? Poveretto, squinzi, allora, io sono riuscita a far parlare questo merlo e l'ho fatto dire, questa persona si chiamava Giorgio, sì. E sono riuscita a farle dire Giorgio cretino. Non ho capito, scusa. Ma lo possiamo sentire o no? Lo possiamo, fate presto. Lo possiamo sentire o no? Pronto? Lo possiamo sentire, sì, sto cazzo, signora, di merlo, prego, o no? Prego. No, no, ma questo risale a tanti anni fa. Ma perché allora ci ha chiamato per dirci questa cosa? Perché così, è tutto finito. Ho sentito questo signore perché che vuole affetto, vuole riuscire a far parlare questo pappagallo e io vi volevo dire che sono riuscita a far parlare questo merlo, insomma, questo. Ma perché lei si sentiva sola e voleva affetto, voleva parlare con noi. No, io non è, io volevo volevo vendicarmi su questa persona, sul proprietario del del merlo. Ma no? Scusi, lei perché ascolta la signora mia, però? Vabbè, però lì, scusi Liliana, però lei si voleva vendicare, però ha fatto ripetere a questo merlo una frase molto morbida, molto Giorgio cretino, ma lei doveva, sì. Non mi pare. Insomma, sono stata gentile, ma comunque ho rischiato quasi una querela. Addirittura, perché poi a un certo punto questo merlo ripeteva continuamente Giorgio cretino, com'è che faceva? Ve lo dico, io ho 70 anni. Come faceva, signora? Me lo può ripetere, per favore, come faceva? Giorgio cretino. Ma no. Me lo diceva benissimo. Ma come lo diceva? Mi ripete il suono, così per capire. Come faceva? Faceva Giorgio cretino! Così faceva, il merlo. Ma non ci credo, dai. Lo ripeteva in continuazione. Giorgio cretino, Giorgio cretino! Ma veramente? Sì, veramente. Ma che i merli fanno così? Com'è che si chiama la Gracula indiana? La Gracula religiosa è un merlo indiano praticamente. Un merlo indiano. Liliana, sì. Grazie di questo meraviglioso racconto. Ciao. Grazie ciao. A voi per la compagnia che mi tenete. Ciao, la un sera. Abbraccio, un bacio. Si figuri, signora Chiara. Un bacio, Chiara, un bacio ciao. Allora, mi segnalano dalla regia che è il compleanno oggi del nostro amico Vincenzo Vinciullo, caro Parenzo. Ah, il nostro amico Vincenzo Vinciullo, oggi compie il compleanno. Magari si fa un regalo da solo. Cioè, magari si potrebbe presentare alla sua festa, siccome va ai matrimoni, alle crisi, magari si mette nel conto spese pure il regalo che si fa da il solo. Il suo regalo, no? Si autofa regalo. Il suo regalo. Io direi di cercare di fare una piccola chiamata al consiglio. Proviamo. Ma mi sembra che sia impegnato al consiglio regionale. È sempre al lavoro. Quello. Sai come era detto quando era giovane? Stiamo parlando, per chi non lo sapesse, naturalmente, di un signore che sostiene, un consigliere regionale della Sicilia, che sostiene che cosa? Sostiene che non riesce ad arrivare alla fine del mese perché c'è un sacco di spese, i viaggi, le trasferte a Roma che peraltro sono pagate dalla regione, eccetera, eccetera, eccetera, tra cui anche i regali che deve fare girando la Sicilia per cresimi, battesimi, feste di compleanno, eccetera, eccetera. Maestro? Stiamo dando la legge per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi. Ma Vincenzo? Presidente, è arrivato un emendamento favorevole. Aspetta. Sì, dimmi. Presidente, è arrivato un emendamento. Ma chi mi dà? È il lavoraccio, un lavoro molto duro. Digli che sono contrario io. Parenzo dice che è contrario a questo emendamento. Respinto. Vince. Digli che faccio E questo qui aggiungere al comma 12. No, canguro! Questo sostitutivo deve essere sostitutivo. Fai saltare tutto. Alla Regione Sicilia lavorano come matti, eh. Ma che lavoro al comma 12, chi se ne frega? Favorevole. No, contrario, canguro! Ma non l'avete detto che... Cornuti! E non l'abbiamo sentito. Boccia tutto! Cassa tutto! Siccome la somma è destinata a finanziare attività per la riduzione della produzione di rifiuti ed incentivare la raccolta differenziata. Ma figurati, ma figuriamoci. In Sicilia la raccolta differenziata, dai, di che stiamo parlando? Chiudi tutto, dai, la regione è roba inutile, dai. Favorevole, contrario. Contrario. Ecco. Eccolo là. Sempre contrario sto qui, cazzo, ma è proprio, non è costruttivo. Contrario. Ma quanti ne votano? Ma che cavolo è? Beh, lavorano, è contrario. Contrario. Gran lavoro questo. L'onorevole Vinciullo al lavoro. Telemaco da Roma, Telemaco, Vinciullo. Buonasera. Al lavoro. Telemaco, dimmi, stupendo. Buonasera, volevo fare un intervento a favore, diciamo, dell'utero in affitto. Ah, allora? Niente, praticamente io ho scoperto che diciamo il primo episodio di utero in affitto lo ritroviamo anche nelle antiche scritture mesopotamiche, in particolar modo nella Trasi. Vabbè, adesso non risaliamoli, non facciamo la storia dell'utero in affitto, per carità. No, io invece ho recuperato il capitolo 30, credo mi hanno mandato degli ascoltatori del Vangelo della Genesi, Parenzo, in cui effettivamente nella Bibbia esiste la pratica cosiddetta barbara dai cattolici dell'utero in affitto. Rachele, vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe, Rachele, vedendo che non era concesso di procreare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, se no io muoio. Giacobbe si irritò contro Rachele e disse: tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo? Allora essa rispose: ecco la mia serva Bila, unisciti Bila, a lei. Bilaca, in ebraico. Bravo, Bila. Bravo. Ecco la mia serva Bila, unisciti a lei, così che partorisca sulle mie ginocchia e abbia anch'io una mia prole per mezzo di lei. Così essa gli diede in moglie la propria schiava Bilà e Giacobbe si unì a lei. Bilà concepì e partorì a Giacobbe un figlio. Beh, qualcuno c'è l'uso della serva, no, ma in Israele il dibattito è aperto. Ma qualcuno anche mi segnale, potrebbe dire che, ad esempio, anche che è così nella tradizione antica, è possibile. Ma che vuol dire? Infatti, l'ebraismo non dico che lo prevede, ma si discute di questa roba. Cruciani, lavati, zozzo. La zanzara. Ragazzi, abbiamo in questo momento collegato con noi da Roma, dal Senato, direi, caro Parenzo, beh, il vincitore, bisogna dirlo. Abbiamo un vincitore di questa partita sulla legge Cirinnà, sulle coppie di fatto. Bisognerebbe portarlo in trionfo come grande, come dire, come Parenzo, come cioè un esponente importante del nuovo centrodestra, senatore. Come si deve sentire oggi di fronte a questa nuova coppia di fatto che si è ricreata, sembrava ormai dissolta, cioè tra Renzi e Alfano? Cioè, poteva sembrare un'altra coppia di fatto, no? Renzi con il 5 Stelle, Renzi, invece l'NCD appare il nuovo centrodestra come il grande trionfatore. C'è poco da ridere, ma insomma, è così. Roberto Formigoni, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Come si sente da vincitore, da trionfatore? Diciamo no, la verità. Io non mi sento affatto in questa condizione, anche perché il maxi emendamento non è stato ancora presentato, quindi non conosciamo il testo. C'è l'accordo ormai. Certamente ci dovrebbe essere dentro, anzi ci sarà dentro un punto fondamentale, che è l'eliminazione della stepchild adoption e appunto il divieto di adozione per le coppie gay, per le coppie omosessuali. Ah, divieto questo... pure, cioè, ci sarà pure il divieto di adozione per le coppie gay? Sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Beh, quindi questo tema, che è inviso all'80% degli italiani, siamo riusciti a cancellarlo, siamo riusciti a ottenere di ritornare nella normalità, per cui ogni bambino deve essere assicurato un papà e una mamma. E no, ma questa è una roba incredibile, veramente. Vabbè, ma questo comunque è no, perché non esiste oggi. Non apriamo il dibattito. No, vabbè, comunque è un successo che hanno ottenuto. Dopodiché, però, io ho ancora delle perplessità pure su quello che sarà come sarà trattato il tema dei cosiddetti simil matrimonio. Cioè, non vi basta lo stralcio, della questione delle adozioni. Gli italiani, oltre che a noi, che hanno espresso con grande chiarezza la loro posizione nel corso di questi mesi. Noi abbiamo sempre detto nel corso di questi mesi che ritenevamo la legge Cirinnà una legge truffaldina, perché introduceva di soppiatto le adozioni gay, che sono espressamente vietate dalla Costituzione, perché parlava di unioni civili, ma in realtà dipingeva un matrimonio, un simil matrimonio. Ma che cosa volete di altro ancora, Formigoni? Cioè, rispetto avete stralciato, siete riusciti a ottenere lo stralcio della famosa stepchild, adozioni, chiamiamole come vogliamo. Adesso volete che sia tolto ancora ogni riferimento al matrimonio, questo è il punto? Ma certamente sì, ma vede, voglio dire, come cerchiamo di ripercorrere la storia. Non ma come siamo noi ad aver scelto la strada disastrosa che il Partito Democratico ha scelto di fare. Cioè, voi non la volevate proprio sta legge Cirinnà? No, diciamo. Il Partito Democratico ha scelto di rompere il patto di maggioranza che ha con noi e ha cercato un rapporto incestuoso, lo vogliamo chiamare, con il Movimento 5 Stelle. È stato respinto con perdite. Non gli è bastata la figuraccia che aveva fatto Bersani questo all'inizio della legislatura. No? Parenzo, Renzi ha voluto fare anche lui la sua figuraccia con il Movimento 5 Stelle. Questo è vero, Parenzo. E quindi è andato a fare la scivolata da un punto clamorosa di vista dei diritti. Ma questa è tutta la tecnica politica. Vabbè, chi ha ho capito, che però rimane dal sul banco. Dal punto, no, di vista, dal punto di vista di Formigoni, che è contro. Dal punto di vista di Formigoni è una grande vittoria. Dal punto di vista di Formigoni, magari lo illustra Formigoni. Allora, vi stavo dicendo, noi abbiamo sempre sostenuto di essere pronti a votare una legge che riconoscesse i diritti dei conviventi omosessuali. Acqua calda. L'unico partito che ha presentato una legge in questa direzione. Vabbè. Cosa sono? No, mi lasci spiegare, poi lei ironizza. mi lasci spiegare cosa sono i diritti dei conviventi omosessuali? Vabbè, la reversibilità, va sono bene o no? Quelli di cui si è parlato nel corso di questi mesi, il famoso diritto all'assistenza reciproca, ma se uno quello, si ammala, ma per esempio la pensione non va bene, lei non la darebbe la pensione, se uno va in carcere, il diritto all'eredità, subentrare nei contratti d'affitto, ma che è forte. Questi sono i diritti fra l'altro che l'Europa ci la chiede pensione no. di riconoscere, la pensione no. omosessuali. Allora, sulla pensione voglio essere molto chiaro. Non esiste una mia opposizione di principio, No. Però io vorrei sapere dove lo Stato va a prendere i soldi per dare la pensione ai conviventi omosessuali. Vuole togliere questi soldi alle famiglie? Non lo so, c'è una si proposta trovano. Di legge avanzata dall'INPS, dal presidente Boeri, di abbassare le pensioni alle famiglie per darle ai conviventi omosessuali. Oppure lo Stato vuole alzare le tasse agli italiani per dare una pensione ai conviventi omosessuali? Lei capisce che in questo momento, quando io avanzo questa ipotesi che il governo pensa, c'è la ribellione nei suoi ascoltatori. Per cui non ho capito. Che hanno già troppe tasse. Sì, no, d'accordo, però non esiste una mia opposizione in principio, ma spieghi il Partito Democratico dove va a prendere questi soldi contro. Per dare la reversibilità. Tu sei contro. No, io non sono contro, ma mi spieghi il governo dove va a prendere tutti questi però di principio soldi. Sei contro il fatto che una coppia gay possa avere la reversibilità della pensione? Sei contro o no? Ho detto che non sono contro in linea di principio. Voglio sapere quanto costa, che probabilmente costerà diversi miliardi. Per cui adesso non bisogna approvarla. Dove si vanno a prendere questi soldi? Adesso questa cosa non bisogna approvarla. Adesso questa cosa vediamo appunto nel maxi emendamento, secondo me è opportuno non farla perché ogni spesa deve avere la sua copertura, questo dice la Costituzione. E siccome la spesa non è stata calcolata, non si può mettere una copertura X o 1 o 2. Parenzo, vogliamo non fare una domanda interessante a Formigoni che è questa. Sì. Adesso per esempio lui vuole mettere non so se verrà messo, non credo adesso, l'utero in affitto come una sorta di crimine, giusto? Attenzione, questo punto lo abbiamo già superato e vinto, nel senso che nel momento in cui la step child adoption è fuori legge, le adozioni sono fuori legge, è chiaro che l'utero in affitto è due volte fuori legge. Allora, questo è un punto importante che sarebbe stato disastroso che siamo riusciti a modificare. Qualcuno dice addirittura che vanno arrestate le persone che fanno l'utero in affitto, l'ha detto il segretario del suo partito, signor Alfano, tu sei d'accordo o no? Allora, vogliamo ricordare cos'è l'utero in affitto? È il fatto che due uomini che non possono partorire insieme danno il seme di uno di loro ad una donna, la pagano perché questa donna porti nel proprio grembo il figlio mesi, figlio i bambini che ci sono adesso dopo però averlo partorito, questo non è un delitto secondo lei. Ma è un delitto che ci sono dei bambini adesso che non hanno diritti. Viene strappato con il suo consenso, viene strappato con il consenso della donna. Certo, viene pagata, è ridotto in schiavitù. Ma non è vero, il cambio di denaro che le serve per sopravvivere, perché la donna si sottopone volontariamente. Vanno arrestate le persone che fanno questo, secondo te o no? In Italia è proibito. No, ma vanno arrestate. Il segretario. In Italia è proibito dalla legge 40, c'è già questa proibizione. D'accordo. Avendo noi evitato di mettere. Ma chi fa questo è un criminale? L'adozione dei gay, è chiaro che il divieto è assolutamente raddoppiato. Ma chi fa questo è un criminale? Chi fa questa operazione? Cioè, lo definisca lei. È una persona che sfrutta la donna, è un barbaro. E dunque, sfruttatore della donna, un violentatore di donne, è un violentatore della dignità umana. Usa l'utero in affitto, chi prende una povera donna del terzo mondo e dietro un pagamento anche di 40-100 mila dollari si fa procurare un figlio su misura. Dunque Vendola, che sta facendo questa cosa qua negli Stati Uniti, sembra, con il suo compagno, è una specie di violentatore. Io non so se Vendola lo sta facendo. E se lo stesse facendo? Se lo stesse facendo, lo giudice? Facendo e lo ha fatto, commette un atto contro l'umanità e contro le donne. Cioè, e infatti, sarebbe quasi ci da sono farlo... gruppi di femministe che hanno recuperato un antico vigore e si sono opposte duramente a questo atto. C'è chi si oppone. Chi lo fa? Non dovrebbe tornare in Italia? Cioè, non è in America. Lo lasceresti tornare in Italia tranquillamente oppure va fermato alla frontiera col figlio in mano insieme al suo compagno Ed? Allora smettiamola di dipingere l'America come la patria del progresso e delle cose belle. Io non ho detto questo. Ho detto una domanda su Bendola. Lo dico io. In America l'utero in affitto è permesso, sì. In America è permesso anche la pena di morte. Bene, in America ogni anno vengono ammazzati legalmente, tra virgolette, centinaia di persone. Quindi smettiamola di dire che rispetto all'America. Siamo avanti, non abbiamo la pena di morte, non abbiamo l'utero in affitto. Non sto dicendo che è un bene. Sono due punti in cui l'Italia è migliore degli Stati Uniti e poi ce ne sarebbero anche altri. Allora, Vendola va fermato alla frontiera se torna? Vendola mi auguro che non si macchi di questo delitto, di questo crimine. Delitto. Mi auguro che Vendola e nessuno si macchino di questo crimine ai danni ma mettiamo delle donne. Che torna ma alla frontiera bambino, mettiamo però. Che torna guardi, alla... non mi interessa la pena giudiziaria, non faccio il magistrato, ci penseranno i magistrati. Pure Cristiano Ronaldo in Italia lo proibisce esplicitamente. È qualche cosa che scandalizza la nostra umanità, ci sentiamo violentati nella nostra umanità a pensare di sottoporre una donna a queste pratiche. Io no. Dopodiché non faccio il magistrato, ci penseranno i magistrati. Dunque, mi auguro che nessuno lo faccia e che Vendola non lo faccia. E beh, ma pare che lo stia facendo però in America. Anche Cristiano Ronaldo lo ha fatto. Risponderanno alla loro coscienza, risponderanno alla ma loro no, coscienza. Ma qualcuno dice che va messo un reato, proprio un vero e proprio reato. Cioè, chi lo fa va sanzionato. Dice anche lui, in Italia è reato. In Italia l'utero se lo fa in Italia. In tutta Europa è un reato. Se l'America, faro di civiltà, lo permette, commette un errore. Sì, ho capito, ma voglio capire se una persona, secondo lei, per una cosa del genere potrebbe andare in galera, se è giusto che vada in galera. A questo rispondono i magistrati. Io non faccio il magistrato. Cioè, se ne occuperà della vicenda Vendola, se ne deve occupare i magistrati. Ma certamente. Sento che una legge lo impedisce, se uno viola una legge, mi spieghi lei, normalmente deve rispondere di questa violazione di legge, quindi sarà giudicato dai tribunali che valuteranno. Ma veramente anche il senatore, anche il suo collega lo giudice l'ha fatto, nessun tribunale l'ha giudicato, il suo collega lo giudice ha fatto la stessa cosa, è tornato col italiana ha tanti buchi, non lo sappiamo. Cioè, andrebbe giudicato da un tribunale. Vabbè. Voglio dire, se una legge lo proibisce, ho capito, mi spieghi lei, una giustizia che funzioni, prende il responsabile che si è autoaccusato. Quel figlio che fine fa? Va tolto quel figlio al signor giudice? No, il bambino va preservato nella sua... va trovata la soluzione migliore per e il qual bambino. È? E se può restare con quella coppia o no? Non conosco il bambino e quindi non sono neanche un giudice minorile. Io faccio il parlamentare. Dico che quel povero bambino sta vivendo in una condizione certamente non ideale. Perché non un bambino ideale. A ma cui mica si è tolta lo la mamma però. Non vive in una condizione ideale. Questo lo capiscono tutti. Allora, fermi tutti. Sarà il giudice minorile a decidere qual è la soluzione migliore per questo povero bambino. Allora, fermi tutti. Torniamo con la chiusura di Formigoni tra qualche istante dopo la pubblicità. Più Parenzo, meno Cruciani. La Zanzara. Cedo appartamento in Prati di 150-160 metri quadri. Citofonare a Parenzo, magari a una famiglia di zingari oppure extracomunitari. Eccoci qua con Roberto Formigoni, nuovo centrodestra al Senato. Devo dire, Parenzo, che naturalmente si può battagliare, noi battagliamo con Formigoni su molti temi. In questa partita bisogna ammettere, io sono favorevole alle adozioni, no, sono favorevole anche all'utero in affitto, cose. Tu no? Io dico solo due cose, sull'utero in affitto ha ragione Formigoni, perché anch'io lo reputo una aberrazione permessa. Tu lo reputi una barbarie. Assolutamente, su quello sì. Dopodiché però invece ha vinto sul piano politico, anche su questo non c'è ombra di dubbio. Renzi è stato un coniglio perché si è tirato indietro, non ha voluto andare alla conta mettendo la fiducia su una cosa nella quale credeva. Però gli dico una cosa, Formigoni, magari che in questo credeva, momento magari non ci credeva manco lui, non c'è dubbio, ed è d'accordo con Formigoni nel suo subconscio, però la questione è un'altra, Formigoni, ci sono dei bambini oggi che di fatto, mancando questa legge, non hanno diritti, no, è tutto qua, no, sì amore allora, mio, no. Sì, scusami, ti assicuro tesoro, è così, stiamo è così, parlando, noi abbiamo detto con grandissima poi non voglio attaccare pippe e cose, ma è così amore, fidati. Ai bambini esistenti vanno riconosciuti tutti integralmente i diritti che hanno gli altri bambini, ma ci non è così. Altro. Ma non è così, perché quei genitori non possono esercitare la patria potestà. Ma non è vero, no, ma perché quei genitori già lo esercitano carenza di una legge che vietasse la stepchild adoption. Fino adesso la stepchild adoption è stata praticata e quindi sono stati messi al mondo dei bambini che hanno due mamme, tra virgolette, o due papà. Questi bambini li lasciamo lì dove sono, ci mancherebbe altro, cos'è? Per continuità affettiva. Però stabiliamo che da questo momento in poi non è più utilizzabile la pratica dell'utero in affitto per mettere al mondo dei bambini orfani. Ma come si questo fa a dirlo? Ma chi vuol dire? Vabbè. E lo giudice, ad esempio, che adesso lo giudice che fa il senatore lo giudice? Comunque... il figlio di lo giudice, se il giudice stabilisce, rimane con queste due persone omosessuali. Se il giudice stabilisce, ma il giudice non se ne interessa, perché se ne dovrebbe interessare? Perché bisogna fare intervenire il giudice? Per continuità affettiva rimane lì. Ma bisogna impedire, ma perché bisogna fargli subire un processo, che sono pronti a comprare un bambino, di farlo, e questa legge lo impedirà. Chissà Vendola, chissà il figlio di Vendola che fine ma farà. Lei non avrebbe mai adottato, ad esempio, Formigoni? Lei come in quanto Formigone. Esatto. Lei se no. Io avrei adottato Vendola. Vendola non lo so. È un po' troppo vecchiotto. De gustibus non disputando mest, come lei mi insegna. L'adozione è una cosa seria. Ma lei avrebbe mai, non ha mai avuto pensato, il desiderio? Non ha mai pensato di adottare un bambino? Scusi, non scherziamo sull'adozione. No, no, è una domanda serissima la mia. Ci sono tante coppie omosessuali, cioè tante coppie, scusi, eterosessuali, sposate o conviventi, sposate in chiesa o sposate in comune. Che chiedono di adottare dei bambini. Dobbiamo semplificare. Vabbè, d'accordo, ma lei, la domanda è per lei. Lei ha mai pensato di adottare un bambino? No, no, mai. Perché? E si è mai innamorato, in vita sua? Perché un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma. E ha mai pensato, si è mai innamorato in vita sua? Sì, e cosa c'entra? No, ma è quello, perché no, magari con la sua compagna ha immaginato da una cosa si arriva all'altra, all'altra. Si è mai innamorato o no? Civilmente single, non ho mai pensato di adottare. No. Evidentemente ho un pensiero ancora sano e corretto. E nemmeno l'idea un single di adottare è una bellissima idea che tante coppie italiane hanno realizzato. E i single non possono adottare, secondo lei? No, assolutamente nemmeno no, perché un bambino ha bisogno di papà e di una mamma. Ma poi non c'è bisogno che i single adottino i bambini. Ci sono 30.000 coppie in Italia che vogliono adottare e soltanto 1.000 bambini adottabili. Quindi cominciamo a dare questi 1.000 bambini alle coppie eterosessuali. Al Family Day, che le piace tanto, ho sentito sul palco un signore, che è uno dei protagonisti del Family Day, che diceva una frase abbastanza incredibile, secondo me, che significa non rendersi conto della realtà, poi ognuno può vivere come vuole. Diceva: il sesso noi lo concepiamo solamente per procreare, non per il piacere. Non mi dica che lei condivide questa cosa. È una sua esperienza personale, non mi sembra molto condivisa da altri. Non è che voglio dire, il Family Day ha portato avanti un altro messaggio. Se poi una persona racconta, era uno dei protagonisti, il signor Gandolfini, che diceva il sesso, no, non credo proprio che fosse Gandolfini. Come no? Non credo proprio. Ne assicuro, fagli sentire l'audio. No, ma le assicuro che Gandolfini, il quale diceva il sesso si fa solamente per procreare, non per piacere. Volevo sapere se anche lei condivide questa piattaforma. Chiedete ragione a chi ha pronunciato questa frase. Lei non condivide questa cosa, allora? Non è che non condivido, se lui ha questa esperienza, tanto. No, lo chiedo a Formigoni, se per lei il sesso è solamente per procreare e non per piacere. Ma per favore, su, dai, il sesso è uno dei componenti fondamentali dell'umanità. No, ma diciamolo, è importante dirlo. Molteplici valenze, dai. No, ma è importante dirlo, perché altrimenti. Ogni insegnamento filosofico, anche ogni insegnamento religioso lo spiega, quindi. Perché non ha risposto a lui? Perché non ha risposto a Lucci quando le ha detto inseguendola, non mi ricordo che frase le ha rivolto sul sesso, cioè quando è sulla castità. Non ha voluto rispondere a Lucci a questa domanda, perché voglio dire, dopo qualche minuto le interviste puzzano, sono come il pesce, basta, le interviste devono essere brevi, è per questo che sto per salutare anche voi. Ma la Cirinna dovrebbe, senza che vi offendiate, ma noi anche volevamo salutarla, sicuro. La Cirinna oggi l'ho incontrata nel corso, è depressa, vero? È depressa. Insomma, è un po' depresso. Non mi sembra proprio nella migliore delle situazioni, soprattutto la sua legge è stata fatta a pezzi, questo è chiaro. E dunque dovrebbe lasciare la politica. Superare il trauma. Dovrebbe lasciare la politica. Ma questo. Lei lo ha detto. Però poi l'ha anche smentito. Quindi voglio dire, io so distinguere sempre tra la persona e i prodotti. Però era depressa. Il prodotto della Cirinna era un disastro. Lo abbiamo profondissimamente cambiato, vediamo. Capito, se ha vinto, a cambiarlo, capito, fondo, la cosa incredibile che ancora qualche punto critico è che in Italia, Parenzo, ha vinto di nuovo Formigoni, incredibile. Ma per carità, magari è quello che pensano. Io credo che non sì, sia così. Non penso che il paese sia lui così, dice di sì, lui dice che l'Italia pensa come lui. Ma tutt'altro, lo se no. Anche voi. No, tutti sulle sondaggi, adozioni può essere, ma non è che si fanno. I sondaggi dicono che su questo se no, punto non avrebbe noi votato. Abbiamo interpretato sulle adozioni, la sulle adozioni. Sulle adozioni e anche sui matrimoni truffaldini. Questo è un paese che ha votato per il divorzio e per l'aborto, vecchio mio. Ma è così, i sondaggi li fate più voi che io, voglio dire, le fanno le vostre emittenti, le fanno i giornali per cui lavorate, le fanno gli istituti serissimi. Vabbè. Per carità, posso sbagliare, però in questo caso dovrebbero sbagliare tutti, perché tutti, indistintamente tutti, hanno detto che gli italiani non vogliono matrimoni tra gay e non vogliono adozioni. Vabbè, a presto, okay. Arrivederci, ciao. Arrivederci, ciao. Allora, Marco da Roma, vai Marco. Pronto, buonasera signor Parenzo, buonasera signor Cruciani. Dimmi. Pronto? Dimmi Marco, allora, dimmi. Buonasera, pronto, mi sente? Aridaie, dimmi. Ah, allora, volevo dire, niente, solamente io abito non molto lontano dal mercatino famoso dei nomadi, dei zingari. No, non c'è nessuno. Non si può più chiamarli zingari. No, ma anche non hai capito ancora. Quale mercato? Non esiste nessun mercato ancora legalizzato. Ma... Ma non è legalizzato, però. Vabbè, ci saranno quelli illegali, sì. Ma come ci hanno fatto il servizio di report, ci hanno fatto il servizio specchia la notizia. E allora? È legale. Allora? E come allora? E allora la mattina ci sono tutti, Mercedes, BMW, dico, se erano le scarpe che dice la signora, non penso. Ma dov'è, dov'è questo mercato? Quello di Tor Cervara. Ah, Tor Cervara, benissimo. E dunque che cosa c'è? Perché ci hai chiamato? Per dirci che ci sono sempre Mercedes, ma mica vendono la Mercedes, ci sono, arrivano in Mercedes quelli là. Sono i clienti. Vabbè, allora che merce c'è in questo mercato? Come allora? E che c'è? C'è di tutto, è quello che avete visto su Striscia la Notizia e su Report. Report, quindi, Report, sì. Report, scusi, perdoni l'accento. Non si figura. No, per carità. Va bene, allora che vuoi dire? Che in realtà è tutta roba rubata? Non tutta, quella che si vede lì. Dopo c'è anche la roba rubata, con Mercedes non ci vai lì al mercatino delle scarpe usate prese dentro l'immondizia. Che poi i cassonetti dovrebbero essere aperti. Chi gli serve qualcosa da vestirsi va lì e se la prende. Dovrebbero essere aperti. Tutti i secchioni dovrebbero essere aperti. Non è furto prendere dell'immondizia. È immondizia. Mm. Viene buttata. Mm. Deve andare all'inceneritore? Scusate. Mm. Va bene, Marco. Ciao. Luigi da Firenze, vai. Senti, era un episodio che volevo raccontare che era abbastanza ironico. Io Dimmi. Sono stato vegetariano per 7 anni. E non avevo detto ai miei nonni che erano un po' la vecchia maniera, no? E diventai vegetariano perché mi ritrovai a fare un viaggio e ritrovai dei camion incolonnati dalle parti di Trieste lì alla dogana veterinaria e mi sensibilizzai sulla questione. E quando tornai a Firenze per un po' di tempo diventai vegetariano, la domenica andai a mangiare dai miei nonni e continuavo a passare il vassoio della carne. Però a un certo punto mio nonno si è incuriosito, ho detto, come mai non mangiare? Ho detto, guarda nonno, e sono diventato vegetariano. E siccome lui era della vecchia maniera, a un certo punto mi ha preso per un braccio e mi ha detto, non sarei mica diventato anche comunista. E allora? E allora questo era semplicemente un po' gli stereotipi. Ma non ho capito, sei stato vegetariano per quanti anni? 6-7 anni? No, 6-7 anni. E adesso? E adesso no, ho ceduto alla carne. Hai ceduto di nuovo la carne? Ho ceduto, ma perché avevo facendo una dieta sbagliata. Che dieta facevi? Mettevo, che ne so, il camembert nel forno a microonde, mangiavo pane e camembert. Camembert nel forno a microonde? Camembert. E perché? Camembert. Ah, sì. Grande poi, formaggio, mangiavo, camembert, mangiavo bravo. Mangiavo troppi formaggi, non sapevo cosa era fare vegetariano in maniera seria, non era ancora una cosa come andava di moda, e quindi invito tutti a fare una dieta equilibrata. Va bene. Ciao Luigi, Andrea da Ravenna. Andrea, vai. Ciao Crux, ti chiamavo in merito a quella storia dei, con le creme. Le creme. Che uno scandalo. Siccome sono nero io, . Ti volevo chiedere, ma secondo perché devi dire che non ce le devono dare le creme? Le creme servono a noi neri. Sì, a parte che non mi sembra che tu sia nero, comunque. Vabbè, sono nato a Ravenna e parlo così, sono nero. Sei nero. Se vuoi ti mando una foto, sono neri. Mandami una foto, allora. E allora ti stavo dicendo che le creme servono perché diventiamo come degli zombie se non ce le mettiamo per un paio di volte. Ma io non ho mai sentito questa settimana. Cosa. Ma ti capita anche a te, solo che tu non te ne accorgi perché sei bianco. E quindi la tua pelle si squama ma non si vede, mentre invece a noi si vede. Quindi se vuoi che andiamo in giro pure come gli zombie, dato che ci denigrano in continuazione. Certo. Poi no, senti amico mio, a me pare assurdo che si spendano 10.000 euro dei nostri soldi per dare le creme. I nostri soldi. Per dare le creme. Ma io perché devo pagare il servizio sanitario per quei matti che te le... Perché devo pagare il servizio sanitario per Mauro da Mantova, ad esempio? Perché devo buttare i miei soldi per uno come Mauro da Mantova, ad esempio? Perché siamo in uno stato democratico e purtroppo anche Mauro da Mantova si deve curare. Bisogna investire, non bisogna investire nelle creme dei neri, che sono una cosa fondamentale per le persone di colore che hanno questo problema. Se non si idratano la pelle più volte a settimana, hanno questo problema. C'è sicuro, documentati, guardati, così. Ma dai, su ragazzi, a spendere i soldi per i campi profughi per le creme, dai, le creme, dai, ma di che parliamo? Giulio da Pescara, dai Giulio. Ciao Crociani. Dimmi. Io è andato via Formigoni. È andato via, sì, sì. Dimmi. Ah, cazzo. Volevo chiedergli, ma se loro che dicono, tutti quelli che dicono che i bambini devono avere due genitori, ma tutte quelle coppie che divorziano e lasciano i bambini con un padre o con una madre, che cosa vogliamo dire? Vabbè, allora, lui fa un discorso sulla nascita, naturalmente, però è vero, si poteva chiedere tranquillamente se era contro il divorzio, ma magari lui è contro il divorzio, che ne so. Cioè... sì, ma lui sarà contro quello che gli conviene. Vietare a forza il divorzio per far rimanere le persone insieme a tutti i costi, che ne so. No, mi sembra ridicolo prendere come scusa i bambini, ecco, solo questo. Va bene, Giulio, ciao. Parlo con Radio Merda. La Zanzara. You can see the morning, but I can see the light. Try, ero a Padova, in centro mi ha fermato i vigili che ero col camion, mi ha detto: di qua non può andare lei, facciamo scusi. Ciao, sul podcast della Zanzara, e il vigile fa: che radio ti ascolta? Ah, dove c'è quel Parenzo lì? Va via, vai via che ti do la multa. Parenzo, ti odiano anche a Padova. Parenzo. Che mondo. Hai sentito che dicono, no? Hai sentito. Hai sentito cosa dice la gente? Come sì, ascoltatori normali. Popolo. Quello che tu allora, disprezzi. Allora, per te, gli ascoltatori normali sarebbero gente che prende un pappagallo. Sì. E lo invita a dire viva il Duce. Farei risentire io questo messaggio. Ecco, questo per te. Farei risentire normale. Il messaggio di un ascoltatore che ci ha chiamato. Comunque. E mi ha mandato questo video in cui invita, cerca di far dire al suo pappagallo viva il Duce. Ripeti, Andrew, dai, impara. Viva il Duce. Ripeti. Ripeti, papà Renzo, dai. Parenzo, vive il Duce! Dai, vive il Duce! E poi ha aggiunto: prima o poi ci riuscirò. Marco da Parma, vai! Marco? Pronto? Dimmi, Marco! Ciao, mi senti? Beppe? Ti sento, okay, dimmi. Ok, perfetto. Allora, io volevo dire alla Roberta... Sì? Formigoni. Sì. Perché prima la chiami dica... Roberta? Perché è una checca isterica, lo sai bene. Ma lo no, sappiamo... non lo so, una ma checca isterica. Lo sappiamo bene tutti. No, lo sappiamo bene tutti, perché cosa? L'hai visto in attività omosessuali e gay? Innanzitutto ti volevo dire una cosa. Io sono 26 anni sì. che sto col mio compagno. Sì. Qualche diritto lo vorrei. Come... E vorrei non essere giudicato da una persona che una famiglia non sa neanche cos'è. Ma scusa un attimo, che Marco, che mestiere fai tu? Io sono un camionista. Ah, esistono anche i camionisti gay allora? Ma non mi sembra così ma strano. Assolutamente. Ma no, ma è così per sapere. Io e te ci siamo già sentiti, ne abbiamo già parlato dei parcheggi. Ah, già è vero, sì. Sì, ci siamo già sentiti. Però una persona che non ha una famiglia e non ne sa niente di queste cose e comunque, ribadisco, sì. prima di parlare di una famiglia, almeno io ce l'ho avuta. Dunque tu sei incazzato per il fatto che vince Formigoni. Oggi molte associazioni hanno addirittura bloccato alcune strade intorno a Montecitorio. Bene. Certo, ma stiamo scherzando. Io voglio dire, una famiglia l'ho avuta, mi sono accorto di essermi innamorato di un uomo sì. a 24 anni. Ho fatto la mia strada, ho due figlie come ti avevo già detto, sì. ho risolto i miei problemi con le mie cose, ma che ci sia una persona... che non ha una famiglia e si permette di dire certe cagate, provaci prima. Su che cosa? Dimmi su che cosa ha detto le cagate, sulle pensioni, su che le cosa? Le cagate, ma sull'adozione dei figli, sulle unioni di fatto. Ma tu pensi che dopo 26 anni, io ho 50 anni, sì. il mio compagno ne ha 59, che li compierà il 19 marzo. Ma ti pare che io non abbia diritto alla reversibilità della pensione, ma come certo. dice lui? Che è discutibile, dice. A me lo dici? Come è discutibile un cazzo, Beppe. È discutibile un cazzo. Io ce l'ho il diritto. Scusami se mi altero, ma non è discutibile. E chi se la tiene sta roba? Perché se io rimanevo sposato con mia moglie, la prendeva lei. Quindi non va persa, voglio dire. Ma me la darai il mio compagno che amo la follia? Marco, io sono d'accordo con te, ma dicono che c'è un problema di bilancio, che per avere la reversibilità delle pensioni dei veri gay devono togliere le pensioni a qualcun altro, cosa che non credo peraltro. Bene. Non ho capito, scusa. Se era una donna il bilancio va bene, no? è solo perché è un uomo che il bilancio non va bene. No, perché è una cosa in più, perché è una cosa in più rispetto, rispetto a quello che c'è. Ma io sono d'accordo con te, per cui con me non c'è battaglia da questo punto di vista. Ciao Marco, Angelo Taranto, vai. Ciao, buonasera, la Zanzara? Sì, no, sì, ciao, certo. Sono Angelo della provincia di Taranto. No, chi cazzo è se no, se non è la Zanzara, scusa. Dai, su. Allora, ascoltate, siccome vi ascolto quasi tutte le... In merito alle adozioni, diciamo, fra persone dello stesso sesso, io così lancerei una proposta. Invece di, siccome pare che insomma il bambino sia diventato un giocattolo, che tutti lo vogliono, no? Però mi sembra una persona che non ha possibilità di scegliere. Sì, allora, ma tutti i bambini non hanno la possibilità di scegliere, anche quelli appunto, che nascono all'interno di una famiglia di due mostri o di due criminali, cioè anche allora, quelli non scelgono. Io lancerei una proposta. Perché, per esempio, tutti questi poveracci che arrivano con i barconi, sì, che hanno almeno 18 anni, quindi consapevoli di quello che fanno, non vengono presi in adozione perché... Perché mica sono orfani. Aspetta, da chi? Da chi? E da chi? Due persone dello stesso sesso, no? Vogliono, cioè, due gay, perché non, perché non adottano gli immigrati che arrivano? Ma non gli immigrati, una persona adulta che è consapevole di quello che sta facendo. Vabbè, ma Angelo, stai scherzando forse? Tu dici, se proprio vogliono un figlio o qualcuno... La cosa grave che lui c'ha anche pensato prima di telefonare, cioè, ha detto, ha comunicato a casa, è andata così, te lo dico. Dai, Angelo, ma non dire coglionate. Angelo, ascolta la trasmissione, ha chiamato la moglie, ha chiamato i figli, tutti i parenti, ci ha detto, adesso intervengo alla Zanzara, dico una cosa incredibile, tutti, cioè, sentiamo. Le famiglie gay potrebbero adottare persone consapevoli, cioè per esempio gli immigrati che arrivano, ma ti ha dato di volta il cervello oppure... Stai parlando, no, ma non necessariamente immigrati, voglio dire, un qualsiasi ragazzo adulto che sia consapevole di quello che sta facendo, semplicemente. Dai, tu hai detto gli immigrati, dai, gli immigrati che arrivano, dai, tu forza. Vabbè, Angelo, ciao. Adesso ci sarà un momento in cui forse ci sarà uno stoppiamento di personalità, non riuscirò a capire chi parla, se è Parenzo, se è Mario Capanna. Buonasera, buonasera. Ciao giovani, ciao. Come andiamo? Bene, ringraziando il cielo. Voi state bene? Tu che dici, Parenzo? Parenzo sempre, come dice Mario Capanna, sempre a cazzo rittissimo, lui dice. Bravissimo. Nel libro. Vedi? Lo dice lui, non è mio, è vero o no? È vero. Mario, com'è che dici, Mario? Ogni volta l'espressione è molto efficace. Vedi? Com'è che è l'espressione? Scusate, com'è l'espressione originaria? Allora, dai, veniamo. Cosa volete da me? Come sta Capanna? Molto bene. No, è assolutissimo. Io quando lo chiamavo, quando veniva ospite da me a Milano, gli dicevo, Mario, come stai? Vieni che parlavo del tuo libro sugli OGM, eccetera. Come stai? A cazzo rittissimo, amico mio. Sempre così diceva. È vero. Vedi? Mario, scusa, come va la vita? Beh, certo, sì, col vitalizio male non può andare comunque. Comunque, vabbè, andiamo oltre. Passiamo oltre il vitalizio. Senti, la vita va bene, sciocchi. La vita va bene, lo sappiamo perché va bene, lo sappiamo. Ma voi cosa volete da me? No, vogliamo sapere questa cosa qua. Siccome è successo all'Università, sì, di Bologna, una piccolissima cosa, cioè un'azione di disturbo la chiamerei, no? Io direi un'azione teppistica, però io non faccio testo. Nei confronti del professor Panebianco, cioè gli hanno impedito praticamente di fare una lezione. Mi è noto il tutto. Dai, è noto il tutto, benissimo. Adesso io immagino che tu avrai provato un senso di gioia, di soddisfazione, un moto di... No, finalmente. Ma avrò capito che io non vivo retrovolto, ma guardo avanti, no? E allora hanno fatto tutta una cazzata. L'esperienza del passato è utile, ti dico la mia in sintesi rapidissima. Rapidissima, sì, rapidissima. Io la penso come l'ex grande presidente della Repubblica, Sandro Pertini. E che diceva? Che diceva, libero fischio in libera piazza, in questo caso si può tradurre libera contestazione in libera piazza. Ho capito, però quelli sono andati a rompere i coglioni, dentro un'aula. Impedire... No, calma. Calma. È scappato come un coniglio. No, ma vedete, peccato che ci cadete anche voi olocratici. Ma ci cadiamo, quello non ha potuto tenere la lezione. No, ma perché? Capito, no? Parliamo di questa che piccolo episodio, no? Beh, piccolo, e non sì. Parliamo che abbiamo scoperto da un giornale straniero che l'Italia già a gennaio aveva concesso la base di Sigonella come una marca di provincia agli Stati Uniti. Ma chi se ne frega, però? Ma sono due cose diverse, però, scusami, no, Mario. Aspetta, allora. Panebianco, nell'ormai noto articolo di metà febbraio, tra l'altro ha scritto, cito testualmente, sì, le unificazioni politiche non si fanno con il burro ma con i cannoni. Ora, per carità, io difendo la possibilità di Panebianco e di chi che sia altro di dire concetti così bellicisti e qualsiasi altro. Ma bellicisti, non mi pare proprio un bellicista. Scusa, le unificazioni politiche non si fanno con il burro, ma con i cannoni. Vabbè, ma ho capito, ha detto che in alcuni casi la guerra è necessaria. Ha detto testualmente quello che io ho detto. Vabbè, ma d'accordo. E allora? Sapete che la guerra è necessaria alle volte. Allora, secondo lui e forse secondo voi, secondo me no, anche secondo Prodi, per esempio, no, che pure difende Pane Bianco, no, ma lasciamo perdere. Vabbè, allora? Il punto qual è? Se Pane Bianco è libero di pensarla così e di scriverlo, di dirlo, credo che non minore libertà abbiano i suoi studenti di chiedergliene conto. Sì, ma quello è un altro discorso. Se gli chiedono conto fuori dall'aula, perché devono interrompere una lezione e impedire un diritto degli studenti di avere una lezione di fronte al professor Pane Bianco? Vedete, questo è il punto. Qui c'è un problema. Sì. Il fatto che i professoroni alla Pane Bianco non amano, come dire, il confronto. Ma non è un confronto. Ma non è un confronto. Vi dico io cosa penso. Al posto degli studenti bolognesi, io non avrei fatto quello che hanno fatto, anche se non è affatto un delitto. Per carità, certo. Quello gli vuole denunciare. Pane Bianco ha un pubblico dibattito. Sì, magari è pubblico ludibrio, no? Ma dibattito di cosa? Su un articolo sul Corriere della Sera? Ma quella è una lezione. Le questioni politiche si fanno con i cannoni oppure no? Ma no, ma ho capito, ma non c'è dibattito. Non è che uno può imporre a un signore un dibattito. Se quello non lo vuole fare il dibattito, non lo fa il dibattito. Ah, perfetto. Ma vedi, se gli fosse stata la formale richiesta, dicendo la invitiamo. Ma che formale? Ma quelli non gliene frega niente. Ma quelli vogliono fare casino. Ma vogliono fare casino. Avremmo visto se Pane Bianco avrebbe avuto gli Zebedei o no per affrontare un simile dibattito. E secondo te non ce l'avrebbe avuto gli Zebedei? Non lo so. Questi sono affari suoi. Così viene in ballo il fatto che si è interrotta la lezione, apriti cielo. Perché non è grave secondo te. È molto più grave il fatto che non si discuta del perché. Non è grave, interrompere la lezione non è grave. Che la tragedia attuale discende dai bombardamenti scriteriati. Ma chi se ne frega, quello è un altro discorso. Perché l'Italia di Berlusconi contribuì. C'è il diritto all'occupazione dell'aula. Vabbè, d'accordo, il diritto all'occupazione dell'aula. Secondo Capana, non so quanti anni dopo. Io voglio capire, tu sei stato anche in galera per quei fatti? Come no? E ne sono orgoglioso. Orgoglioso della galera? Assolutamente sì. Che va in prigione non perché ha rubato, stuprato o rapinato. Ma che si va in ragione delle proprie idee condivisa da centinaia di migliaia e milioni di altri. Ma scherzi, è un onore straordinario. Adesso condivisa, cioè sequestro di persona. Sequestro di persona. Ma sì, aveva fatto un'occupazione, avrà tenuto. No, è il famoso caso Trimarchi, dove appunto è lì il bello, no? Vedete come ho ragione io? Che i professori non amano il dialogo. Ma sì, avete chiuso un professore. Pane Bianco non ama il dialogo, questo vuol dire, non ama il dialogo. 1969. Molto bene, facciamo il punto. 69. Trimarchi era l'unico potente. No, adesso non ripetiamo. Sì, 69. Costruiamo tutto. Però fatemi parlare. Certo. E al contrario di tutti gli altri, si rifiutava di non apporre il voto negativo sullo statino, che poi sarebbe rimasto. Ma scusa, ma è normale. Nel caso che uno studente fosse impreparato. Ma certo. Tutti gli altri docenti erano d'accordo con noi, dicendo benissimo, lo possiamo evitare. Se lo studente è impreparato è chiaro che lo boccio, ma non glielo scrivo sul libretto e ridà l'esame alla prossima. Ma perché non lo deve scrivere sul libretto? È giusto il voto negativo. Aspetta, era l'unico. Vabbè, era l'unico, ma meno male che era lui. Scappava come un coniglio. Andammo nell'aula e dicevo, professore, ti vuole spiegare perché lui e lei è l'unico che non fa questa roba? Ma perché? La risposta fu un mutismo. E per forza eravate in 10 contro 1, poveretto. Con il consenso di tutti gli studenti. Ma quale consenso? Insistevamo nel dire, ma scusi, perché non... Una minaccia fu, una minaccia. Vabbè, su. Quello rimase per un'ora immobile, senza che nessuno gli impedisse di uscire, e furono denunciati, ovviamente arrestati, per sequestro di persona. Grande atto democratico, certamente, un grande atto di democrazia. Capisci, no, voglio dire. Certo, democratico. Che era una intimidazione contro il movimento studentesco. Non c'è dubbio, lo fermo immobile. C'è il voto negativo. Capanna, buon vitalizio, arrivederci, buona serata. Ma che c'entra? Un momento, dobbiamo chiudere. Già, arrivederci. Chiudere un cavolo? Ma ancora non sei il padrone della Confindustria. Due giornalisti ma non sei il padrone della Confindustria. parlate semplicemente alla pancia delle turbe. No, ma non sei ancora il padrone della Confindustria. Viva, non ho capito, ma tu Eva Klotz la conosci, quella che c'ha il vitalizio, che si è preso un milione di euro? No, non l'ho mai conosciuta, ma chi se ne frega. Vedi però come siete ridotti, no? Fatelo parlare, mi scrive Gabriele. Non del disastro della Libia, della, ma chi se ne frega, siamo clocrati, non ce ne frega una mazza. Mi scrive Gabriele, mio cugino, fatelo parlare, ti prego, mi ha scritto. Arrivederci, Marcella Borio all'interruzione, lascialo lì, fermo. Ma non me ne frega niente, non chiuderlo, non chiuderlo. No. A me la zanzara non mi piace, mi eccita. La zanzara. It was a beautiful day. Sun beat down. No, ma che c'entra? No, un momento. I was driving. Il grande ritorno di Capanna alla zanzara. Me and Del were singing. Crozza. Esiste il diritto tecnicamente chiamato di occupare un'aula universitaria, e se un barone stronzo ti vuole mettere il voto negativo, il barone va chiuso in un'aula universitaria, possibilmente per qualche ora, accerchiato da 15 persone con magari una mazza in mano, ma non si chiama sequestro di persona tecnicamente. Meno male che la Cirinna si vota entro venerdì. No, perché se la trattativa con i cattolici va avanti ancora un po', a forza di mediare, in 2 settimane ci tolgono anche il divorzio, il voto alle donne, rimettono il delitto d'onore e ci bucano anche i preservativi. Questa non è male però, Crozza, eh? Crozza Renzi! E voglio chiudere con una buona notizia. Perché il 22 dicembre inaugureremo la Salerno Agrigento. Lo so, avrebbe dovuto fermarsi a Reggio Calabria, ma Angelino ha insistito per arrivare fino a casa dei suoi. Ancora Crozza. Però diciamo che oltre a Silvio, alla frutta c'è un po' tutto il centrodestra, eh? Ormai non è più una coalizione, no? Sembra un mercato ortofrutticolo e Bertolaso è il cetriolone. Lucia da Frosinone, vai Lucia. Pronto, sono da Pordenone. Da Pordenone, sì, scusami, da Pordenone. Ascoltami Cruciani. Dimmi cara. Io sono una mulatta. Sì. Perché tu stai parlando delle creme, no? Beh, non sto parlando delle creme, è un signore che fa l'accoglienza ai profughi che ha detto che si spendono 10.000 euro per le creme per i signori migranti. Adesso che arrivano qui. Ti spiego il perché. Per i signori migranti che arrivano qui, capito? 10.000 euro di creme. Vabbè, per carità, sarà necessario. Mi arrendo, sarà necessario. Che cosa vi devo dire? Voglio dire, non sta a te decidere. Beh, che devo fare? Io sono mulatta. È un kit. Sono nata in Somalia. Tu sei mulatta nata in Somalia. Sì, ma va bene, perché io non ho niente contro, né contro i mulatti, né contro quelli nati in Somalia. E dunque? Mio papà è italiano. Sì, bene. Noi africani, sì, con il sole, sì, abbiamo sempre bisogno. Noi ci mettevamo l'olio d'oliva, certo, sì, in Africa per combattere il sole. È normale, dai. Ma non è normale. Quando sono in Italia, no, che dal 70 che sono in Italia, sì, io sono da mulatta, sono diventata bianca. Vabbè, qual è il problema? Perché abbiamo bisogno, la nostra pelle è secca. Sì, però Lucia, io non credo che il problema dei profughi che arriva in Italia, ma no, io che arrivano in Italia, sto dicendo dei profughi. Sì, però... no, ma io quello sto dicendo. Io non credo che il problema dei profughi che arrivano in Italia sia quello di mettersi la crema. Io non credo che sia quello. Però magari non mi sbaglio. Ma però se tu vuoi, non vuoi avere la dermatite della, sì, pelle, devi metterti sempre una crema, devi sempre combattere. Io non credo che sole, tutte le persone di colore o mulatte in Italia siano lì alle prese con le creme, no, ogni non giorno. Sei tu non a credo, decidere però cosa deve fare un migrante o no. Scusami se te lo dico. A me la cosa mi ha un po' colpito. Vabbè, ma Lucia, no, ti fa ridere, Parenzo, perché ti tilli. Parenzo, io ti voglio bene, Parenzo, anch'io, perché cara, ci difendi anch'io sempre. Ma no, vi difendo il buon razzista senso, ma io ti abbraccio, cara, ma vinceremo. Digli anche fratello, sorella, no, sorella Lucia. no, vinceremo questo qualunquismo. Sta cambiando il clima, fidati. Non farti intimorire da questi quattro scalzacani che chiamano The Med. Non ti preoccupare, il clima sta cambiando perché c'è tutto un mondo che è con noi. Ma c'è un mondo dicendo? Che pensa che sia giusto, ma che giusto ci siano, cosa? Che si lotti per i diritti delle persone, che tutto sommato dare la cremina al migrante non è quello che dice scioccamente Cruciani. Fidati, il mondo per bene c'è, sta cambiando. Non è qui alla Zanzara, ma il mondo per bene c'è. Ma fidati. Di che state parlando? Fidati, fuori c'è un I mondo. Diritti, ancora lei lo cosa sa, dei io diritti. Ti abbraccio, sorella. Vedrai che va bene, stiamo andando avanti. Sorella, tu. Stiamo seminando anno dopo anno, ormai sono 6 anni, goccia dopo goccia, ma ci siamo. Ma cosa? Li stiamo sconfiggendo questi ma qui, questi qualunquisti, parlando? Sta gente, sti leghisti, sta roba, questa subcultura. Ci siamo. Lucia. Teniamo il punto. Siamo qui, fermi sulle barricate della radio della Confindustria. Ma di che amici. Parli? Confindustria. Ecco, bravo, siamo bravo. Qua, cara, siamo qui a combattere. Ma siete due criminali. Siamo qui a tenere il punto ma al diritto cosa? Alle cremine, ai migranti. Il diritto alle cremine. Siamo qui a tenere il punto Rom. Contro le vostre ironie stupide. Rom. Mercatini dell'usato. No, della roba rubata, no dell'usato. Non lo so, ma comunque mercati laterali che combattono il grande capitale. Siamo qui, ci siamo, teniamo il punto fino a quando non ci Lucia, cacciano. Lucia, che fai di mestiere? Mi sono fatto male la mano, tengo il punto. La mano, state. Che fai di mestiere, Lucia? Il mestiere più vecchio del mondo. La puttana. Ecco. Beh, ho difeso una prostituta, non ho capito. Vabbè, siamo qua lo stesso. Io pensavo il notaio, dicesse l'architetto. Oh, vabbè. Lucia, vabbè. Improvvisamente mi si apre un mondo. Mi si apre improvvisamente un mondo, cara Lucia. Allora, fai vabbè. Tecnicamente la puttana, la zoccola, vabbè, giusto? La partita IVA. Quanti quattrini guadagni, cara Lucia? Niente. Come niente? Ma sono vecchio ormai. Scusa, quanti anni hai? Quanti anni hai? Non si può dire. Ma dimmelo, dai, su. Ma no, 20. Allora, resta lì con me un attimo, Lucia, resta lì. Scusa, quanti anni fai? Ma fai la zoccola o no, Lucia? Fai la zoccola o no? Sì. Dimmi, quanto guadagni? Ma niente. Ma come niente? Uno non è che lo fa gratis. Pane e latte. Pane e latte. Ferma lì che ti faccio ascoltare una persona, ferma lì. Legalizzare prostitute, legalizzare. Lucia, tu sono sicuro che lo fai non perché sei schiavizzata, giusto? Lo fai perché lo vuoi fare o no? C'è andata la maledetta, richiamatela. Come la maledetta, poverina? Ma è con noi un grande personaggio. Non posso dire nome e cognome, dirò semplicemente Apple Tony. Un signore di poco più di 30 anni che fa i gigolò, ma soprattutto è il famoso gigolò vegano che vorrebbe sfidarmi in una gara di resistenza sessuale. Buonasera. Pronto, buonasera. Ciao. A tutti. Ciao, ecco, come stai? Mancava bene, questo fenomeno adesso. Bene, mancava. Non c'è male. Mancava il vegano che sfida il gigolò sessuale, mancava no. In questo grande circus. No, mancava. No. Apple Tony è un personaggio meraviglioso. Io voglio capire una cosa, caro Apple, ma tu da quanto Apple fai il gigolò? Apple Tony, ma tu pensa a sti poveri industriali. Beh, diciamo così, che subito. L'ho fatto un po' a tratti. Cioè? Ho cominciato a 20 anni a farlo, poi vabbè... Comunque mi sono fidanzato, ho dovuto interromperlo, poi mi sono lasciato e l'ho ricominciato da circa un anno e mezzo. Da circa un anno e mezzo hai ripreso. Sì. E la fidanzata c'è ancora, è consapevole? No, non è consapevole. Cioè la fidanzata non lo sa? Non lo sa. Cioè tu sei fidanzato con una ragazza e non lo sa? Non lo ma sa. Ma non è possibile, dai, ti riconosce alla radio, non ci raccontare stupidaggini, dai, lo sa, dai. Lo sa o sì, no? Dai, va bene, sì. Vabbè, dimmi la verità, qui siamo un grande casa di trasparenza. Dunque, sa che fai gigolo e non è gelosa? No, ma questo è buono, è molto positivo. Beh, diciamo che mi ha conosciuto così e questo, diciamo, il lavoro che so fare. Dunque, è il lavoro che sai fare, cioè, tu non sai fare un altro mestiere in pratica. No, beh, so fare anche altri mestieri. Tipo? Beh, ho fatto l'insegnante di pop... insegnante di pop, mi sono fermato all'insegnante di pop. L'insegnante personal trainer, ho fatto anche questo, però quello diciamo, che diciamo mi il tuo lavoro principale mi è questo qua. Mi appassionava di più era il gigolò. Cioè tu comunque un amante delle donne, Beh, certo, però c'è da pensare pure tra qualche anno che cosa faccio quando, quando non mi tira più, quando diventerò più anziano. Più, beh, ancora ce n'è di tempo. Poi, essendo vegano, riesco anche a tirare avanti qualche anno. Scusa, ma io non vorrei, non vorrei andare nel dettaglio, ma quanto denaro si riesce a fare in un anno facendo questo? In un anno, sto dicendo, con questo mestiere, facendo questo mestiere. In un anno. Facciamo una cosa di un anno, dai, senza dire al mese, al giorno. No, non ho idea. Ma che non hai idea? Beh, dai, ce l'hai idea, se no dai, come fai? Su, non diciamo stupidaggini, è tutto meravigliosamente in nero, tutto con, in contante, immagino, no? Tutto contante. Cioè, allora, facciamo così, a prestazione quanto prendi? I don't know. Ma dai, su, Apple, non fare il riservato, mica ti viene a cercare la finanza domani mattina. No, vabbè, però comunque preferisco tenere un po'. Cioè, comunque campi cosa. Bene con questa roba, cioè il tuo unico, sì. Il tuo unico ingresso, il tuo unico introito. Sì, si vive abbastanza bene. Si vive abbastanza bene, siamo nell'ordine di 4.000 al mese. Diciamo, non hai poi comunque rotture di palle come gli orari di lavoro, comprare il cartellino, svegliarti una certa vabbè, questo ora, non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Se vuoi dire prenderti un mese di vacanza, puoi prenderti un mese di vacanza. Se non vuoi andare in un weekend, vuoi stare a riposo un weekend, cioè puoi fare esattamente quello che vuoi. E ma comunque le ore di lavoro non sono come. Beh, cioè, quanto diciamo, lavori al giorno? Boh, in media avrò più o meno una media di un'ora di lavoro al giorno. Un'ora, cioè fai una al giorno ne fai? No, non esattamente, però la media diciamo che è quella. La media posso anche non fare niente tutta una settimana e magari darci dentro tutto il weekend. Capito, Parenzo? Sì, ho capito, mi pare un'attività molto intensa. Ma siamo sempre nel campo dell'economia, siamo sempre nel campo dell'economia, dell'attività quasi praticamente imprenditoriale. Ma lei la aprirebbe una piccola ditta individuale con iscritta alla Camera di Commercio, fosse con possibile. Partita IVA? Ma guarda, se dovessero legalizzarla, perché no? Ma certo, assolutamente. Una buona idea. In fin dei conti fa lo stesso mestiere di Lucia, quella di prima, eh? Cioè fa il prostituto in pratica. Lucia, sì. Hai visto? C'è un tuo collega qui. Al maschile, diciamo. Ma sì, ma quelli fanno proprio schifo. Perché fanno schifo? Concorrenza. Ma fanno schifo quelli che vanno con le vecchie. Ma no, ma tu vai ma con le vecchie. Apple, vai con le vecchie? Ma non è detto. Ma sono non le proprio. Vecchie che hanno bisogno? Ma non è vero, perché comunque diciamo che la media delle donne che mi chiamano qual è? Che comunque sulla quarantina d'anni. La quarantina. Senti, comunque posso. Vabbè, perché sono vecchie. 40 anni è una donna matura. Scusa, Lucia, abbi pazienza. Scusa. C'è un conto magari andare con noi, sai con chi ci ha portato via il lavoro? Chi? I Finocchi. Eccola. Eccola qua. Perché dici? I Finocchi ci hanno portato via il lavoro. Perché tu l'hai difesa questa cosa? No, difesa. Ma lo so, ma adesso però. Anche quelli che fanno Chuck si fare retromarcia, che devo fare? Non ho capito, perché ti hanno portato via il lavoro i Finocchi? Perché fanno tutto, anche specialmente quelli che hanno fatto Chuck si gira. Sì, che vuol dire? Che Chuck hanno tagliato si gira. Il cazzo. Ah, che hanno tagliato, dici. Eccola qua. L'hai difesa fino a due secondi. Ma io domani la richiamo, Lucia. Domani la richiamo tutta la vita, sia Lucia. Scusa, Apple, come sono cambiate le tue prestazioni da quando sei diventato vegano? Beh, diciamo che ho avuto dei miglioramenti a livello prestativo, comunque a livello di durata riesco a tenere di più. Cioè, ma veramente stai dicendo? Io non ci credo questa cosa no, qua. No, la verità, la verità. Cioè, da quando sei vegano duri di più? Sì. Cioè, riesco a avere più controllo durante il rapporto sessuale. Riesco più a mantenere il controllo, capisci? Mamma quando mia. Da carnivoro... E duri anche di più? Sì, assolutamente sì. Cioè, capito? Quello che ci sta dicendo Apple è che da vegano si dura di più. Comunque, io e te la gara non la possiamo fare per un motivo molto semplice, che c'hai 31 anni, amico tuo. Cioè, amico mio. Io, allora... ma io c'ho qua, ce n'ho 17 di più, ma è una gara impari. Cioè, è evidente che ci tu... ci vorrebbe qualcuno della mia età. Comunque, i clienti sono anche aumentati da quando sei diventato vegano, sì, naturalmente. Cioè essere vegano ti ha fatto guadagnare di più alla fine. Sì, diciamo che comunque avendo delle prestazioni migliori hai comunque più richieste, perché comunque se sei bravo automaticamente le persone ti chiamano. Comunque non è che allora fare il comunque la fidanzata la fidanzata consapevole è incredibile, cioè la fidanzata non è per niente gelosa. No, ormai niente, è tutto finito. Tutto degradato. Lucia? Arrivederci a tutti, via, andiamo Lucia, via. Lucia, cara, dai. Sì, stiamo andando via. Lucia, devo andare senti, al cinema cara, io, ma perché vi hanno rovinato i froci? Perché quelli c'hanno tre buchi. Oh mamma mia, ragazzi. E io chiuderei. Ormai, saluti, basta. Lucia, basta. Ci sentiamo domani, cara, domani. No, chiudere un cavolo. No, un momento.